All together now, all together now, all together now. Vabbè, canaglieci, non c'è nessuno, siete tutti in ascolto con le orecchie pelose come gli elefanti. Sapevate che gli elefanti hanno le orecchie pelose? Maraccionca, oh yeah! Oh yeah yeah yeah yeah yeah yeah! Che miseria! Beh, mo me ne esco, ciao a tutti, ci vediamo, ciao! Attenzione canale 10 Brecco. Attenzione canale 10 Brecco. Hola. Attenzione. Attenzione. Hola, hola. Attenzione canale 10 Gambio. Gambio. Hola, 1 2 3 prova. Hola, 1 2 3. 1 2 3 prova, cambio. Hola, hola. 1, 2, 3, prova, prova. Hola, 1, 2, 3, prova, cambio. Attenzione, canale 10, cambio. Hola, hola, hola. Hola, hola, 1, 2, 3, cambio. Hola. Attenzione, canale 10, cambio. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attenzione, canale 10, cambio, cambio, cambio. Hola, hola, ecco, hola, ecco, voi, ecco, voi, ecco, voi. Prova, prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cambio. Hola, hola, attenzione, 10. Che avanti? Sì, sì. Hola, attenzione, dici. Hola, hola. 1, 2, 3, prova, prova, prova radio. Prove tecniche di trasmissione. Prova, prova, prova, hola, hola, hola. Attenzione sul 10, c'è qualcuno?